In diretta da Fukushima 2, va ora in onda Opencast Alpha, un programma molto radioattivo e quello è molto cretino. E sei in campanissima con Opencast Alpha, puntata numero 9. Mi dicono, non voglio ragazzi questa sera che facciamo le solite cose perché la gente ce l'ha veramente piena la RAM, va bene, diciamolo così, ci abbiamo piena la RAM del oh scusa no, ma siamo sicuri che la puntata 8, la puntata 9, basta, è la 9, ho deciso che è la 9, se non è la 9 non fa niente. Quindi è la decima. Quindi era la 10. Non era la 8 bis. No, è la 9, per cui la decima. È la nona. È la nona? No, è la decima. Beethoven. A nonna. Quindi partiamo subito con delle news freschissime che abbiamo portato questa sera. Certo, no? Tutti. Davide, di cosa ci volevi parlare tu? Pesce d'aprile. Ecco, i più bei pesci d'aprile, li vogliamo segnalare in rete? Avete notato cosa è successo sulla homepage di Debian, Gentoo e qualche altra bellissima distribuzione? Ah, okay. Arc. Poi cos'è che c'era? Ce n'era qualcun'altra. Stiamo parlando di distribuzioni Linux, ragazze, per voi tantissime ragazze che ci ascoltate, che saluto le mie fan. Le tue? Ciao, ciao, sì, volevo salutare Maria. Le tue? Sua mamma fan, e sua nonna. Fan, non dico fans perché nonna, non si dice. La nonna non la sa accendere la radio mai. Opencast. Non è ancora spenta, da non sa accendere l'internet. No, io nonna, tu ci devi ascoltare. Cioè, accendi il computer, scarichi e ci ascolti con le cuffie oppure con... Risposta è stata: io non voglio sapere nessuna cosa. È illegale. In realtà la sua più grande fan è la famosa Shura Maria, che ci ascolta tutte le settimane, tutte le puntate. Shura Maria. Dall'autobus, intanto che torna a casa con le borse della spesa. Io comunque stavo dicendo qualcosa. Stavi dicendo qualcosa di interessante. Comunque, ciao a tutti, io sono Coso. Sì, sempre. Guarda, fa riderissimo questa cosa che sei Coso tu. Stai zitto, te. Sto già ridendo. Ma allora vogliamo. Guarda, stasera è un po' acido. Io invece sono contento perché anche stasera abbiamo guardato gli annunci mortuari e non c'eravamo. È vero. Benissimo. È vero. E fammi ci dare una grattata, già che ci ogni sono. Settimana controlliamo. Parlavamo dei pesci d'aprile. Secondo pesci me d'aprile. È interessante se ci ricordiamo un po' che cosa abbiamo visto in rete il primo aprile. Allora, hanno organizzato questo mega scherzone mettendo questa bellissima home page in cui hanno messo queste 4-5 distribuzioni dicendo che si fondevano per creare una nuova distribuzione che si chiama la Canterbury. Sogno, bellissimo, tutti assieme appassionatamente. Il sogno di tantissimi utenti. È durato 5 minuti più o meno. Ma è stato bello, quindi. È stato bellissimo. C'è ancora forse su Wiki. Ma a voi come utenti piacerebbe una maxi distribuzione? Sì, pensa che bello, la stabilità di Debian, la compilazione di Gentoo Arc, vabbè. Suse, cos'è che ci mette? Suse, cioè il verde, ci metti il verde Suse. È come se fai una macchina che va veloce, consuma poco, ecco. È una due posti che però può portare tutta la famiglia. Ecco. Falla. Secondo me, per la stabilità di Gentoo, falla. Secondo me è il nome giusto. I pacchetti nuovi. La facilità d'uso di Gentoo. Il nome giusto di Debian. Per una distribuzione Linux sarebbe falla. L'ha detto falla. Lui. Falla. Falla sarebbe veramente una... Falla. Insomma, per una distribuzione Linux, falla non è proprio bello. Cioè, su un server non la metterei, insomma. Ecco. Falla. Certo. Invece, scherzone per gli appassionati di videogame, su Tom's Hardware, che salutiamo. Ciao, Tom's. Ciao, Tom's. Hanno scritto che ci sarebbe stato l'ennesimo ritardo, non si sapeva più quando usciva il gioco, tantissimi si sono un po' spaventati. Che gioco? Qualcuno ha anche commentato, e saluto te che hai commentato, con scritto... Troppo facile fare il pesce d'aprile su Duke Nukem, ormai è un classico, cioè da 16 anni a questa parte. Che si fanno scherzi prima d'aprile dicendo che ritarderà, poi è bello che ritarda sul serio. Sul serio, qualche altro pesce d'aprile invece il team di Gmail ha fatto uno scherzo, praticamente ha presentato un'interfaccia per interfacciarsi con Gmail via webcam, in cui tu muovi le braccia e puoi mandare le email. Pensavo che muovevi le braccia e poi muovevi i piedi. Allora, per aprire la mail si fa così. Allora aspetta perché i nostri ascoltatori devono capire bene. Allora, rifacciamolo, attenzione, vedere rifai vedere uniti sul torace praticamente. Sì. E poi come se avresti una finestra. No, a me piaceva di più la spiegazione così. Così. A me piaceva la versione swimming, quell'anni 20. Invece per fare il reply si fa così. Bravo, si alza il pollice e si indica dietro la schiena. Per fare il reply a tutti si alzano i due pollici e si indicano se dietro la schiena. Dietro la schiena. La cosa più bella per inviarla, cosa si fa? Si apre una mano, come se avere una la busta sulla mano, e poi si fa il timbro e si invia. Sì, ma... E volevo anche segnalare che la funzione ricerca è mettendo un dito nel naso. Lì ma lo sapete parte che la ricerca delle parole. La sera stessa... Ma la cosa bella è che la sera stessa un tipo dell'università americana... No, non è un tipo, un drogato. Un drogato. Usando la cinetica ha implementato un programmino che fa esattamente questa cosa qua. Questa cosa qua. L'ha messa su YouTube. Perfetto, ottimo. Ottimo, ha fatto bene. Allora, in quale avete abboccato di questi scherzi? Oh. Io quello, tu hai avvocato quello di Duke Io quello del Sole 24 Ore, che ha detto va tutto bene. Grande scherzo, ho detto, tutto bello, posto. Cioè tutto a posto. E hai fatto un piano di investimento? Sì, sì, assolutamente. Ho buttato via tutti i miei risparmi su un giardinetto. Perché settimana prossima vorremmo fare un barbecue. Bene, c'è il giardinetto. Dove? A casa tua. Ah, per esempio, sì, c'ho il giardinetto. C'è il giardinetto, ma l'hai comprato via internet? Sì, sì, ho un'asta. Arrivano degli aerei? No, cioè lo volevo comprare, però vicino c'era l'aeroporto e allora ho detto l'ho sentito. Però insomma non lo so, adesso magari cambio idea. Cambi? Cambio idea. Quindi non abbiamo abboccato nulla, ragazzi. No. Io ho abboccato, voi avete abboccato. Per 30 secondi è quello della Debian, devo essere sincero. Proprio 30 secondi. 30 a me piaceva molto il loghettino, quelle cose lì. Poi la distribuzione Farfalla? Farfalla. Come si chiamava? Farfalla. Canterbury. Canterbury. Comunque, per parlare di cose serie, la musica che abbiamo ascoltato era musica giapponese, perché noi ci sentiamo molto vicini ai giapponesi. Sì. L'ho scelta personalmente. Questa musica, e io non voglio, perché continuano a dirmi che io scelgo la musica in base alle copertine, perché dicono che cerco solo ragazze. Questa, come si intitolava questo album? Ma non è allora, io l'inglese no, lo dimmi conosco. Come si intitolava l'album? FH, no, PH 5.5. PH regna, c'è una sorta di comoregna. PH regna. Presente? Fregna. Fregna. Fregna. Fregna. Si legge? Fregna. Fregna. Oh. Fregna. Però bisogna anche pensarlo in un contesto di lingua giapponese. Ondo kando ka fregna. Ondo kando ka no. Ondo kato sto fregna. Fregna. Ci sta. Esatto. Ci sta. Ci sta. Comunque, devo dire la verità, andate a cercare fregna. Non so cosa troverete. Silvio, no. No. No. Silvio, hai già dato. Chi per piacere è un amico. Lascia che ci ascolta ogni volta. Lascia qualcosa per gli altri anche. Tu non lo sai, ma lui ci ascolta tutte le puntate tutte in le autobus puntate. Mentre torna da fare la spesa. Anzi, per ciao grande ragazzi, usa il nostro Opencast. Usate anche voi il nostro Opencast per fare la spesa. Usatelo per andare a correre. Usatelo per quello che vi pare. Non vi distraete mentre andate a correre, soprattutto in strada. Vogliamo parlare di qualche news invece vera e effettiva? Perché cosa abbiamo detto fino adesso? Ecco, io vorrei segnalare un papiro che ho trovato in terra. Papiro? Sì, un papiro babilonese. Ah, internet. Che cos'è? www, come dice mia mamma. Come internet. Dice quello della cosa, Google. Non è soltanto il luogo parte Google che noi conosciamo. Così, tanto per. Perché dobbiamo pensare che internet è uno dei luoghi più segreti al mondo. No, questo lo devo leggere dopo, cavolo. No, allora, la notizia in cosa consiste? È stato da poco creato il Cooperative Cyber Defense Center of Excellence della NATO. E questo è uno dei luoghi più segreti al mondo. La sede è a Tallinn, in Estonia, perché l'Estonia è stato uno dei primi paesi impegnato nella guerra cibernetica, questo termine che ci sarà familiare nei prossimi anni, ci dovrebbe già essere, e i residenti chiamano questo luogo segretissimo il K5, che sembra un po' una montagna, non c'era il K2? Qualcosa sì, c'era. Hanno saltato il 3 e il 4 e sono andati direttamente. È come la metro di Milano. Sì, esatto. Ecco, lei dove va? Io K2, in realtà, io 5, grazie. La metro 4 portava sfiga, penso. Sì, che sì. Questo centro di difesa cibernetica è stato da poco aperto non al pubblico, non ai giornalisti. A noi di Opencast Alpha. Ah, sì? E adesso ve lo vogliamo descrivere. È quella porta che c'è lì. Allora, entrando sulla destra c'è un signore di colore con un bastone che... Che colore? Un signore di colore con un bastone seduto. Beh, ascolta, sì. Se è 5 è lilla. È lilla. Esatto. Ok. Poi c'è un ascensore, tu scendi praticamente, entri in questo ascensore e scendi 30 piani. 30 piani. Sì, poi ti aprono una porta e ci sono praticamente degli alieni, delle cose... Cioè, è una storia, cioè paura. Perché praticamente per fare la cyberguerra in realtà servono delle specie che abbiano almeno 6 braccia. Per gestirsi. Quindi, tutto fra qualche anno i giapponesi ci stanno lavorando col Kinect. Allora chiedo a Fabio gentilmente di censurare questi ultimi 20 secondi, quindi facciamo un piccolo no scherzo. E quindi la mia notizia basta, finisce qua. Non era una notizia, ma veramente era scritta sulla carta igienica sì, assolutamente. perché insomma abbiamo un nostro, quindi c'è un centro della NATO per la cyber difesa, perché la cyber difesa è importante, perché ultimamente ci sono stati dei fenomeni a Tallinn, perché Tallinn è stata una delle prime, l'Estonia in generale è stato uno dei, ad avere uno dei primi centri in Europa e anche al mondo di difesa cibernetica. Tu pensa perché che hanno ricevuto degli attacchi dalla Russia, hanno ricevuto degli attacchi dalla Russia per delle stupidate, ti dico, hanno spostato da una piazza Tallinn una statua che era stata messa durante il regime comunista, i russi per ripicca hanno fatto un attacco informatico e loro si sono dovuti un po' difendere, cioè, quindi sono avanti da questo punto di vista. Tu pensa che se questo sistema fosse partito prima, qualche mese prima, il nostro Silvietto non avrebbe avuto quelle notizie false e tendenziose sulla villa. Guarda, tendenziosissime. Comuniste. Comuniste. Ci siamo date anche la politica in opera. Ma io non c'ero in questi lei si dissocia. Non ho sentito niente. Lei si dissocia. E a proposito di dissociarci, io vorrei proporre un nuovo brano che ha portato questa sera qui per noi l'Inquisizione Spagnola, assolutamente dal 1970 in poi. Cos'è che prima ascoltiamo? Non si sa. Ascoltiamo i Dissonox. Chi? I Dissonox. È un gruppo che forse abbiamo già sentito in altre puntate. Che spacca. Un gruppo che spacca. Il titolo è The One. Questo non l'ho scelto io perché non ci sono donne. No, in realtà era sul tuo computer. Cacca. È dedicato a Bim Bum Bam. E tecnologia 3D. Ne vogliamo parlare? Ma siamo sicuri? Ci sono un sacco di siti, ragazzi, sul web, spopolano, dove stanno girando e offrono all'utenza finale video tridimensionali che possono essere guardati sia con gli occhialetti della Nvidia, insomma, quelle robe lì, che anche con i vecchi occhialetti rosso e verde. Bisogna dire che il porno ha sempre tirato la tecnologia. Ha sempre tirato. Deciso quella tecnologia, quale sarebbe stata quella di successo e quale no. Vogliamo ricordare? Vogliamo ricordare il VHS soprattutto. Versus Betamax. Esatto, vogliamo ricordare anche i primi... Il DVD contro il DVD. Esatto, il DVD contro il DVD. Il Blu-ray contro se stesso. Contro l'HD-DVD contro il web. Esatto. Il noleggio via internet di film, tutte queste cose qua. 5 contro 1. L'unica cosa che un pochino mi lascia perplesso di questa mossa è che è risaputo che l'utente medio del genere già indossa gli occhiali perché ha delle serie carenze di diottrie. Sì, per cui non so quanto possa apprezzare questa novità. È un utente praticante fin da giovane. Esatto. La diottria se l'è lasciata per strada. Esatto. E comunque, ragazzi, ho provato perché avevo degli occhialetti che avevo ordinato via internet. No, la dovete sentire. Allora, mi ero iscritto al sito di un gruppo. Ho visto che entravi a tastoni. Allora, mi ero iscritto al sito di un gruppo che hanno fatto un video in 3D e hanno mandato agli utenti iscritti, cioè questi mi hanno mandato dall'Inghilterra gli occhialetti 3D, quelli finti, cioè quelli rossi e blu. Esatto. Casualmente mi trovavo sulla rete, casualmente, e sono casualmente incappato in un video. Esatto. E mi sono detto: ma questa coscia ha qualcosa che non va. E ho visto al lato della del rosso e del verde. E poi ho detto: oh hanno vuoi vedere i colori. Che è in 3D? Allora ho tirato fuori dal cassetto. Perché lo tiri nel cassetto? Aspettate, il soggetto, gli occhiali 3D che. Oh, ecco qua. Proviamo, ragazzi, si è aperto un mondo. Cioè, si è aperto il mondo. Veramente si è aperto un mondo. Cioè, ho capito questo è una tecnologia arcaica, se vogliamo, quella dell'occhialetto, però con un 3D giusto, con l'occhialetto, cioè, si è aperto veramente un mondo. Abbiamo dato un senso mega televisore che hai comprato. No, ancora non l'ho comprato e non avevo nessuna intenzione di comprarlo in 3D. Ma ci sto pensando. Ma infatti tutto questo era al centro commerciale. Che ci sto ma proprio io mi immagino, pensando. Ma quando uscirà per il Nintendo DS? Ma a proposito di Nintendo DS, ecco. Per tuo figlio. Gigetto si sposta di colpo. Vieni qua, Gigetto, vieni qua dal papi. Fammi vedere un attimo questo coso qua che ti ho comprato. Dammi qua, ostia. Fai vedere un po'. C'è la schedetta di memoria, quella roba lì che mi ha dato il culo. La madonna. Chiudi. Non va mica bene. Non guardare qua. E quindi insomma, siamo pronti per la tecnologia. Per tornare alla news principale di cui stavamo parlando, il Nintendo 3DS ha avuto dei problemi di black screen ultimamente. Stavamo parlando proprio di quello. Dopo il lancio del 3DS, cioè nel senso che è stato certo preso. Certo che se tu lanci il 3DS, è stato proprio sul muro. Ci sono dei problemi perché il monitor fa fatica nero. Il nero invece è per tornare alla news degli occhialetti 3D e del nero. Ecco. È drogato. Parliamone. L'altro giorno, andando a cercare qualche news per questa puntatissima, sono capitato in un sito stranamente non porno che parlava di E17. Non ci siamo accorti che E17 finalmente è arrivato alla versione 1 a marzo, sì. Io non ci credevo. Stabile? Beh, stabile è una parola grossa. La versione 1. Adesso siamo già alla 1 punto qualcosa, 1.6, 1.7. 1.0007. 7. Le prime tre note le posso riprodurre senza... Però basta. Ti ho sentito. Comunque ancora non ho visto nessuna distribuzione che ha questi bei pacchettini nei repository. Ci sono degli overlay, vedremo. Mi pare Sabayon che ti fa scaricare con E17. Solo open moco. Per i non addetti ai lavori, E17 è la sta per Enlightenment 70. 17. È un'interfaccia grafica molto. È un'interfaccia grafica che nasce all'incirca 4 anni fa, forse 5, forse anche 6. Mi sembra che più o meno nel periodo di Duke Nukem avevano detto, esatto, che facevano. E a suo tempo era un'interfaccia abbastanza rivoluzionaria, molto ammaliante dal punto di vista visivo, sorpassata assolutamente con i vari Beryl, Compiz, eccetera, eccetera. Consuma molto molto molto meno memoria. Guarda che hanno fatto dei bei lavoretti. Abbiamo 4 livello... giga di RAM, abbiamo 8 giga di RAM. L'ultima volta che l'ho vista, per mettere i bottoni per lanciare le applicazioni dovevi fare una sì, laurea in informatica. Sì, diciamo che è un pelino complicata la configurazione. Diciamo è il questo. Bello del mondo libero, insomma, sei libero di crearti un bottone per fare una cosa tipo spegnere il computer o accenderlo. Ma io ho dovuto creare un bottone per accendere il mio computer. Il mio primo computer l'ho portato a casa nel 1996, l'ho acceso, ho fatto così. Basta. Cioè, basta, finito lì. Cioè, ho detto no, disperazione, appena comprato vado giù da basso, scontento, torno sul computer acceso con un pezzo di spago e una matita incastrata nel tasto, lo spago che era tutto attorno al computer. Mio padre era passato di lì e ha detto ci penso io. Ha detto papà, ma cazzo, in garanzia, ma mandiamolo su, cioè portiamolo su, cioè ridaglielo subito, non si può comprare un computer e portarlo a casa manco si accende. Ma le hanno provato, vabbè, comunque piccoli momenti. Era il mitico Pentium 2. Ringraziamo la ditta Strabilia, non so se esiste ancora, spero volendo no. Puoi portarglielo, dovrebbe essere ancora in garanzia. Sì, sì, sì, assolutamente. L'ho venduto davanti al Bennett nel 97. Un davanti tipo. Al Bennett? Sì, sì, sì. Cioè, tipo... Davanti tipo... al Bennett di Cantù. Ehi, eri lì quel... Pigua, voi, c'ho qui una cosa, però me non serve. L'ho venduto su, ragazzi, ve ne dico una, questa è veramente... I Bazar. Oh, mamma mia. Chi si ricorda i Bazar? Mai visto. È grave. Ma era della Apple, i Bazar. Della Apple? Che non so, chiedo. No, era i Bazar, il bazar, era sito di asta italiano, poi inglobato da eBay, comprato da eBay. Ah sì, io c'ho ancora, io c'ho ancora l'account i Bazar, con la password da 4 lettere, quindi. Ciao. Loris. Pippo. Loris, devo cambiarla, stasera la devo proprio cambiare. Notizie. Notizie. Una notizia veramente quasi importante, ragazzi, quasi straordinaria. Permettetemi una notizia di quelle che non stai dicendo niente, ma è lo straordinario. Stai lo stai dicendo bene, lo stai dicendo in modo straordinario. Telecom lancia 2 opzioni ADSL, Super Internet e Super Internet Plus. Ma quanto si pagano per dire questa notizia? Si pagano 5 euro, mi sembra. Gli danno la DSL. Euro al mese una. E 8 euro oltre la flat normale che già hai. Ma qual è la novità a dir poco rivoluzionaria per alcuni? Che Telecom Italia assicura una velocità minima garantita nel rispetto dell'articolo 7,4 della delibera Agicom 244/08 CSP per Super Internet con un valore di 3,2 megabps, megabit al secondo, per secondo. E invece per il Super Internet Plus abbiamo addirittura un 7,2 megabit per secondo. No, non è megabit, è megabound, perché stiamo parlando di ADSL, mi correggo. Quindi 7,2, cioè, insomma, la banda minima garantita non è poca roba. Chissà dov'è la fregatura. Dov'è la fregatura? La fregatura è che hanno appena tagliato i ponti al peer-to-peer, al file sharing, eccetera. Quindi ti garantiscono la banda minima. Ma poi però, che te ne fai? Però se ne usi troppa, arrivederci e grazie. Mi serve per mandarti i loro contenuti, mica per farti usare, certo, internet. Se ti compri lo streaming. Così puoi comprare, esatto, il televisore. Se vuoi il Cubo Vision, te l'hanno proposto a te il Cubo Vision? No, mica sono stupido. A me pure, me l'ha proposto. Abbiamo in linea il tecnico Telecom per parlarci di questa cosa? Non lo so, perché mi hanno detto che ha cambiato operatore adesso. Abbiamo forse in linea, Perché abbiamo provato a fare il numero, ci risponde che è passato a Vodafone. Sì, pronto? Sì, pronto? Sì, pronto. Pronto? Buonasera. È il tecnico Telecom? Sì, Telecom Italia, mi dica. Senta, abbiamo letto questa notizia che avete aumentato Super Internet. Banda garantita. Sì. Ma è vero, funziona? Sì, sì. Grazie. Sì. È stato molto illuminante. Ma ci posso scaricare i film? I nostri, sì. Quelli del portale, cioè, Telecom, se vuole fare il Cubo Vision. Se poi vuole scaricare altro, Guarda, io le consiglio un'erboristeria molto buona. Ma scusi, ma io ho sentito che voi garantite questa banda però solo sui vostri siti, cioè potremmo vedere la vostra pubblicità a una velocità straordinaria. Assolutamente, sì. Che bello. Non vedo l'ora. Sì. Bene. Ho vinto qualche cosa? No. Sì, noi l'avevamo chiamata, però lei doveva rispondere: io ascolto Opencast Alpha 109.205. 109.205 sulla ruota del bar in Opencast Alpha. Modulazione di demenza. Ecco, le ringraziamo comunque per grazie mille. Devo ripetere tutto le manderemo a casa ma il regalo. Da quando va in onda? È già in onda. Posso fare un saluto? Una roba veloce. Allora, saluto Marica e pure Antonietta, scusa se poi quando ti spiego per quella cosa là, No, Marica non c'entra comunque, grazie. Comunque grazie mille per la sua pazienza grazie per aver giocato con noi. Grazie. Arrivederci. Alla prossima. È sempre molto interessante parlare con i tecnici Telecom che rispondono al telefono. Noi abbiamo gli agganci. Votate per il tecnico Telecom alle prossime elezioni. Non sia mai che ci sia una migliore comunicazione tra istituzioni e... Elettorato. Cioè con Telecom. Non lo so, magari ci chiamano a casa e dicono: oh, buongiorno, allora guardi che oggi in Parlamento stiamo facendo questo. Grazie. Lei cosa ne pensa? Grazie. Tanto non ce ne frega niente. Grazie. Appunto, ecco. Però devo dire che questa telefonata veramente si sente bene. Consultivo. Grazie al nostro tecnico Telecom. Abbiamo la banda minima garantita, visto che va in voice. Stiamo usando il VoIP adesso. Una cosa, io volevo dire semplicemente questo, perché forse a qualcuno è passato di mente, ma lo scorso fine settimana, cos'è che era? Che giorno era? Sabato e domenica? Sabato e domenica. 2 e 3 aprile c'è stata la fiera dell'elettronica Erba. Domenica. E noi del gruppo Linux di Como eravamo giù. Tutti, tranne uno. Tranne te. No, Opencast futuristico. No, è inutile che ci provi. Tu eri in giro a cercare i siti porno. Avvia 3D. Lo sai che noi avevamo la connessione a internet? No, però ragazzi, se riusciamo a staccare, perché ci avrei da fare stasera. Ho comprato il kit Nvidia. Visto che il tempo sta scorrendo inesorabile, scorre. Abbiamo raggiunto Entro Reggio. Abbiamo iniziato così stasera. Quindi... visto che abbiamo raggiunto il nostro minutaggio usuale, stiamo superando la trentina di minuti da poco. Volevo sapere se abbiamo qualche altra rubrichetta da mandare in onda prima, oppure dobbiamo chiudere qua. Sì, abbiamo la rubrichetta "Perché ti piace solo a te?". Vai. Per la rubrichetta "Perché ti piace solo a te?", oggi parleremo di amplificazione. L'amplificatore che cos'è? 1, 2, 3, che me ne frega a me. Quando parliamo di amplificatore ci riferiamo a un mezzo analogico o digitale? Cioè lo uso col digito o con l'anolo? E qui l'anolo, tra l'altro, è l'ottavo nano. L'anologico è un nano pensante. O è peccato? Il nano logico. Come ragiona l'anno logico? Oppure no. E inoltre, l'AMG, cioè è normale che a ste portiere che si alzano così, cioè sopra, mi sto chiedendo, se io me la compro, l'AMG o AMG, e vado al supermercato e parcheggio la macchina tra due macchine, quando alzo la portiera, che succede? Non lo scopriremo mai. O forse sì, nelle prossime puntate di Opencast Alpha.